Le strade della comunicazione. Cinema, spettacolo e new media. Un mondo che oggi, più di altri, offre nuove opportunità di lavoro in un ambito senza dubbio attraente, fatto di espressione creativa, ma anche di competenze tecniche e produttive. Il mercato dell'entertainment è in forte crescita e offre ai giovani nuove possibilità professionali in attività stimolanti. Autore di programmi televisivi. È il responsabile dei contenuti di un programma TV. Soprattutto per i programmi di intrattenimento, l'autore non partecipa all'ideazione del concept originale, ma solo al successivo sviluppo del format. Stabilisce le linee guida del programma e coordina l'intera redazione, di cui fa parte anche l'autore testi, che realizza il copione, cioè i dialoghi e le battute di conduttori e ospiti. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in televisione, cinema e new media dell'Università Yulm. www.yulm.it